Storie italiane. Il venditore di cappelli e le scimmie. Una volta, in una piccola città viveva Tony, il venditore di cappelli. Creava cappelli diversi con tessuti diversi e li vendeva nei villaggi vicini. La vendita di cappelli era l'unica fonte di guadagno per Tony. Non si era mai lamentato dei suoi piccoli guadagni e faceva diligentemente il suo lavoro. E dopo aver soddisfatto i suoi bisogni, comprava il tessuto per fare cappelli da vendere il giorno successivo. Tony guadagnava di giorno in giorno e per questo motivo non smetteva mai di lavorare. Ma nonostante il duro lavoro e gli scarsi guadagni, Tony era un felice venditore di cappelli. E questo perché amava quello che faceva. Veniva sempre fuori con delle grandi idee per creare dei cappelli incredibili. Era molto creativo e dava il 100% a ciascuno dei suoi cappelli. Un po' più lontano dalla città di Tony si trovava una foresta piccola. Era una bellissima foresta con molti fiori e frutta fresca. La foresta era proprio nel mezzo di due villaggi. Le persone dovevano spesso attraversarla per andare dall'altra parte. Sebbene fosse una bellissima foresta, c'era una cosa che dava fastidio a tutti: le scimmie dell'albero grande e grosso. Infastidivano la gente che passava rubandogli tutto ciò che gli umani portavano attraverso la foresta. Gli abitanti del villaggio avevano provato tutto il possibile per affrontare le scimmie, ma alla fine rinunciarono tutti, perché quella era una foresta. Non puoi certo portare gli animali via dalla foresta. È la loro casa. Le scimmie erano molto birichine. Rubavano qualsiasi cosa portassero i passanti e spesso imitavano i passanti e ridevano di loro. Questo è il mio ombrello! Restituiscimelo in questo istante! Le persone cercavano di fare del loro meglio, ma poi si arrendevano indifese. Pochi giorni dopo, Tony visitò il villaggio per vendere i suoi cappelli. Aveva con sé tutti i tipi di cappelli, semplice e colorato, a pois, a strisce. Non c'era una sola fantasia di cappello che Tony non avesse nel suo cesto. Cappelli, cappelli, cappelli, acquistane quanti ne vuoi. Ma non ne avrai mai abbastanza, cappelli! Rosso, grigio e blu, indossa il colore che ti piace di più, cappelli, cappelli, cappelli! Gli abitanti del villaggio uscirono dalle loro case quando sentirono Tony. Non avevano mai visto dei cappelli così belli prima d'ora. Oh, questi cappelli sono davvero carini! Oh, sono così morbidi, sono così belli! Mamma, posso per favore averne uno? Questi cappelli sono così morbidi, non posso smettere di toccarli. Ed era proprio vero. Molti dei cappelli di Tony erano fatti di seta. Era insolito avere berretti di seta, ma erano così belli e morbidi che nessuno poteva resistergli. Molti abitanti del villaggio comprarono i cappelli da Tony. Gli offrirono anche acqua e cibo, ma lui rifiutò. Oh, grazie mille! Ma devo continuare il mio viaggio. Devo anche andare al villaggio vicino. Oh, non dovrai attraversare la foresta per andare al villaggio vicino? Credo che dovrò farlo. Ah, bene. Chiudi il cesto stretto mentre vai, va bene? Ci sono un mucchio di scimmie dispettose che rubano tutto ciò che porti. Oh, davvero? Lo ricorderò. Grazie per il vostro consiglio. Tony raccolse tutti i soldi che aveva guadagnato, vendendo cappelli, e se ne andò. Decise di esplorare il villaggio prima di attraversare la foresta per andare dall'altra parte. Andò in giro e ammirò la bellezza del villaggio. Ah, sono così affamato. Avrei dovuto mangiare quello che gli abitanti del villaggio mi stavano offrendo. Non ho tempo per sedermi e mangiare ora. Devo andare in altri villaggi per vendere questi cappelli. Non importa, comprerò qualcosa e lo mangerò una volta nella foresta. Tony sapeva molto bene che doveva vendere tutti i suoi cappelli se voleva guadagnare abbastanza per quel giorno. dopo aver vagato per un po' alla ricerca di cibo, finalmente trovò una bancarella che vendeva deliziosi panini. Ne comprò due e li mise nel suo cestino. Tony tornò indietro attraverso il villaggio e raggiunse la foresta. Una volta raggiunta, si era dimenticato tutto delle scimmie e del consiglio del vecchio. Camminò attraverso la foresta, ammirando i bellissimi fiori e la frutta fresca. Prese alcuni frutti e li avvolse in un panno. A distanza, vide il grande albero grasso. Oh, sembra un posto comodo per sedermi e mangiare. Così Tony andò all'albero, si sedette sotto di esso e aprì il cestino per estrarne i panini. Mangiò i panini e i frutti e decise di riposare per un po' prima di partire per un altro villaggio. Tony era così stanco e assonnato che si dimenticò di chiudere bene il suo cestino. Le ore passarono e Tony stava ancora dormendo profondamente quando sentì qualcosa. Ah? Cos'è questo rumore? Chiunque sia, silenzio! Ma il rumore continuò. Alla fine, Tony aprì gli occhi e si guardò intorno. Non c'era nessuno. Poi svirciò nel suo cestino. Tony rimase scioccato. No! Dove sono tutti i miei cappelli? Rimaneva solo un cappello nel cestino. Tony fu colto dal panico e cominciò a piangere. Qualcuno ha rubato tutti i miei cappelli. Cosa faccio? Poi si rese conto che il rumore non si era fermato. Quando finalmente alzò lo sguardo... Oh no! Le scimmie! Loro mi hanno rubato i cappelli! Ed eccole lì! Tutte le scimmie sedute su un ramo, ognuna di loro con un berretto di Tony che rideva di lui. No, ho dimenticato cosa aveva detto il vecchio. Cosa faccio ora? Questi cappelli sono la mia unica fonte di guadagno. Se non riavrò questi cappelli, allora non avrò soldi per comprare nuovi tessuti per domani. Cosa mangerò? Come guadagnerò? Ah. Voi, scimmie! Ridatemi i miei cappelli adesso! Basta così! Venite giù, adesso! Non appena le scimmie batterono i loro piedi con forza sui rami, alcune bacche caddero. Questo fece pensare Tony. Aspetta, mi stanno imitando. Sono scimmie, certo che mi stanno imitando. Si stanno divertendo a guardarmi arrabbiato. Perché non uso il loro trucco contro di loro? Tony cadde drammaticamente a terra per dimostrare che era triste e che si era arreso. Cominciò a piangere, osservando costantemente le scimmie alzando la testa. Oh no! Cosa faccio ora? Tutto quello che ho è questo ultimo berretto. Oh, credo che dovrò essere felice con questo. Tony si mise il cappello in testa e si alzò in piedi. Poi alzò lo sguardo con rabbia. Voi, scimmie, vi insegnerò una lezione un giorno. Dicendo questo, buttò via il berretto con un movimento rapido. Lo lanciò con tutta la sua forza a terra. Copiando esattamente i movimenti di Tony, anche le scimmie gettarono tutti i cappelli a terra. Senza sprecare un solo minuto, Tony raccolse tutti i cappelli, li infilò nel cestino e lo chiuse. Oh, sciocche scimmie! Va bene, arrivederci ora! Così Tony si è reso conto dell'importanza di stare calmo quando le cose non vanno come vuoi tu. Se, pieno di tristezza e rabbia, non avesse notato la debolezza delle scimmie, non sarebbe riuscito a riprendere tutti i suoi cappelli. Tony felicemente fischiettò uscendo dalla finestra, vendette i cappelli nell'altro villaggio, guadagnò denaro e tornò a casa.